Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon fine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Abbiate pazienza nelle risposte, soprattutto adesso che è piena estate, perché di mail ne arrivano veramente una quantità industriale ed è difficile stare appresso a tutte. Molte le scartiamo ovviamente perché non hanno nulla a che fare con la nostra trasmissione, per le altre dovete avere un po' di pazienza, cerchiamo di accontentare tutti. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardi Ollati, lo trovate con un motore di ricerca, comunque sull'home page del Sole 24 Ore online. Alcuni giorni fa sulla posta elettronica del giornale ho ricevuto una bella notizia da parte dell'azienda sanitaria locale di Ragusa, l'azienda sanitaria locale numero 7, quindi ci troviamo in Sicilia. La mail mandata dall'ufficio stampa diceva sostanzialmente questo: il ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta sta cercando di vietare l'abuso di internet per scopi personali all'interno della pubblica amministrazione, giustamente dico io, in maniera sacrosanta. Ebbene, noi AUSL di Ragusa lo abbiamo già fatto dal 2007 in maniera addirittura più restrittiva di quanto prevede nella sua direttiva il ministro Brunetta. La cosa ci ha incuriosito e quindi che cosa abbiamo fatto? Ma abbiamo chiamato il direttore generale dell'AUSL 7 di Ragusa, l'avvocato Fulvio Manno. Buongiorno Manno. Sì, buongiorno a lei dottore e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci dica perché è più restrittiva la vostra direttiva piuttosto che quella del ministro Brunetta. Perché sono previste una serie di ipotesi di non corretto uso di internet che nella direttiva non erano comprese, come per esempio l'operazione di remote banking, acquisti online, partecipazione a bacheche elettroniche, quindi diciamo è molto più ampia e dettagliata. Assolutamente sì, infatti anche andando per chi avesse curiosità o per chi fosse diciamo nella pubblica amministrazione volesse trovare alcuni spunti di riflessione, diciamo che c'è anche un sito internet, trovate anche questa notizia, è www.ausl7.rg, cioè ragusa.it, ed effettivamente si trova che c'è il divieto di utilizzare software o hardware non forniti dall'azienda, scaricare file eccetera eccetera eccetera. Una bella iniziativa Manno, però la domanda è questa qui: ma chi controlla che effettivamente poi il dipendente, tanto non lo vede nessuno, prenda lì nottetempo, dico per dire, e si metta a fare quello che vuole su internet? Beh, intanto il servizio informatico ha predisposto dei filtri che impediscono l'accesso a tutta una serie di siti che hanno carattere sessuale, che sono caratteri violenti, eccetera. Poi vi sono delle griglie di accesso a secondo il livello e le necessità operative del dipendente, cioè c'è chi può accedere solamente ai siti istituzionali, c'è chi invece per esempio ha necessità di fare, non lo so, delle ricerche, degli approfondimenti, come può essere non so l'ufficio legale ad esempio, l'ufficio certo. Legale o la direzione sanitaria, che può accedere ad altri siti internet. Ecco, quanti dipendenti avete voi dell'AUSL di Ragusa? Diretti sono 2600, poi sono gli indiretti, cioè i medici convenzionati, i medici di medicina generale, i pediatri. E anche a loro è vietato ovviamente l'accesso? No, ma loro non utilizzano l'internet aziendale. Ecco, visto che dal 2007 avete questo sistema di difesa che è benvenuto e che ovviamente noi supportiamo, diciamo così, dal punto di vista affettivo, quanti ne avete presi con le mani nel sacco? C'è stata già qualche sanzione oppure non ancora? No, devo dire sanzioni non ce ne sono state, perché il senso della legalità della provincia di Ragusa, non solo dei dipendenti, è molto alto. Ecco, questo ovviamente fa piacere. Infatti a questo punto vorrei con lei un po' ampliare il senso del nostro discorso. Il ministro per la funzione pubblica sta conducendo, Renato Brunetta, sta conducendo da alcuni mesi una colorita, anche in alcune occasioni campagna contro i fannulloni nella pubblica amministrazione. Personalmente ritengo che di fannulloni nella pubblica amministrazione ce ne siano tantissimi, ma debbo altrettanto onestamente dire che anche nel mondo privato, nel quale io ho sempre lavorato, di fannulloni ne ho conosciuti altrettanti. Quindi è una campagna un po' demagogica, ma ci può anche stare. Ecco, avvocato Manno, qual è il suo giudizio? Nell'House di Ragusa quanti fannulloni lei ha conosciuto e soprattutto come fa a permettere loro di non essere tali e quindi di essere operativi, lavorare, insomma, quanto gli state con il fiato sul collo a questi supposti o reali fannulloni nell'azienda sanitaria locale di Ragusa? Intanto c'è l'assegnazione degli obiettivi a tutti i dirigenti e quindi alla fine si vede se il lavoro viene fatto o meno. E poi anche un dato molto importante è che gli uffici siano aggiornati. Cioè, le faccio un esempio: se lei viene a Ragusa per chiedere una visita per il rinnovo della patente speciale, che ci vuole tutta una commissione, nel giro di 10 giorni le fanno la visita. Ecco, quindi quello è un indicatore significativo, non ci sono mesi di ritardo. Allora significa che il personale che è in quell'ufficio lavora con attenzione e che fa il suo dovere. Certo. Lo stesso dicasi per esempio per le visite per chi chiede l'invalidità civile. Diciamo che nell'arco di un mese il cittadino viene sottoposto a visita, quindi sono tempi accettabili, anzi direi più che accettabili, tempi eccellenti. Ecco, allora lei, avvocato Mano, mi conosce da alcuni anni, da quando venni in Sicilia a fare una serie di inchieste sulla sanità siciliana per il giornale del quale sono inviato, il Sole 24 Ore appunto, sì. E ricorderà anche che quelle inchieste suscitarono non poco astio ad un certo punto anche all'interno della regione siciliana per quello che venne tirato fuori. E quindi sa che non mi piace poi fare delle domande facili, e allora le chiedo questo: ma è lei che esagera nel lodare il lavoro che svolgete, oppure, e ci spieghi perché, Ragusa è un'isola un po' felice all'interno della sanità siciliana, quantomeno, non potendo giudicare ovviamente il servizio reso, quantomeno nella tempestività dei servizi stessi? Bisogna dire che oltre a un livello di cultura della legalità superiore al resto della Sicilia c'è anche una cultura del lavoro che in diverse altre province della Sicilia, ma anche d'Italia, non si trova. Cioè chi ha bisogno non cerca il posto per avere lo stipendio, ma cerca il lavoro, la richiesta è il lavoro, e chi ha un lavoro se lo difende perché sa che deve lavorare e poi a fine mese avrà il compenso. Questo è dovuto anche a fattori storici, forse di isolamento, perché anche a tutt'oggi le comunicazioni con la provincia di Ragusa non sono eccellenti. Sì, assolutamente sì, lo confermo, non è il massimo della vita. Entro fine anno dovrebbe aprire l'aeroporto di Comiso, il raddoppio della Catania Ragusa è ancora di là da venire, attualmente è crollato il ponte di Primo Sole, da Catania a Ragusa 110 chilometri si impiegano 5 ore. Esattamente, infatti sì. Abbiamo letto sulle cronache anche nazionali di questa notizia che ha lasciato un po' perplessi tutti. Le chiedo, avvocato Manno, ovviamente i nostri microfoni sono aperti a chiunque volesse, come dire, dare altre testimonianze in senso positivo o in senso negativo sull'House ragusana, perché non siamo qui certamente per difendere nessuno, ma per parlare. Avvocato Manno, ma le faccio un'altra domanda: ma se veramente voi siete così bravi, no? E io non ho motivo per dubitarne, fino a prova contraria, assolutamente no, ma poi l'ho conosciuta, so della sua capacità, diciamo così, di coinvolgere le persone e comunque di fare gruppo. Ma allora perché non è possibile, come dire, esportare il modello ragusano fuori dai confini della vostra provincia e estenderlo ad un'isola che ha dei gravissimi problemi dal punto di vista della sanità, ripeto, non nella qualità del servizio, servizio, non solo in quello, ma proprio nell'organizzazione dello stesso, tanto che ci hanno messo un magistrato antimafia, proprio perché sappiamo anche il rischio delle infiltrazioni mafiose nella prestazione ovviamente dei beni e dei servizi. Io come direttore ho avuto la soddisfazione che in un paio di occasioni la regione siciliana, l'assessorato, ci ha chiamato. Il CUP, cioè il centro unificato per le prenotazioni tramite telefono, è stato preso a modello dalla regione siciliana per esportarlo in tutta la regione, e il progetto è stato approvato dal MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda per esempio l'abbattimento delle liste d'attesa, l'azienda è partita con un modello che era già in fase sperimentale nel Veneto, che è quello di cambiare le prenotazioni da cronologiche a prioritarie, cioè chi effettivamente ha bisogno di una prestazione specialistica la deve fare, se è urgente, entro 48 ore. Benissimo, avvocato Manno, io la fermo qui perché il tempo a nostra disposizione, ahimè, è scaduto. Ringrazio in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.